con Alessandra Ferraro per parlare del focus sulla compagnia Margine Operativo a Roma, al Teatro Argo Studio, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Alessandra, ben trovata. Ci Grazie, ciao. dici un po' di questo focus? Sì, allora, come dicevi tu, siamo per 4 giorni al Teatro Argo Studio e presentiamo un po' come nel nostro stile un programma articolato, un po' un viaggio attraverso le nostre ultime produzioni, sia performative che di spettacoli. Quindi il 31 gennaio presentiamo 3 performance che sono Vita di Artista, Beautiful Borders e Odissea Furiosa, quindi 3 brevi performance che però insieme compongono, diciamo, questo un trittico di quelle che appunto sono le nostre ultime produzioni rispetto alle, diciamo, le performance breve, che è un altro pezzo di, diciamo, del nostro, che contraddistingue il nostro lavoro ultimamente. Sono delle performance che abbiamo già presentato in altri contesti, sia in contesti indoor, quindi in teatri, all'interno, spazio al chiuso, sia in versione, diciamo, open air, forse qualcuno l'ha visto anche ad attraversamenti multipli. E mentre invece l'1, il 2 e il 3 febbraio presentiamo in anteprima, quindi proprio la prima uscita del nostro spettacolo che si chiama La Frontiera, con in scena Tiziano Panici, che è un attore con cui lavoriamo già da un po' di tempo, che è presente in altri nostri lavori. E con questo spettacolo continuiamo un po' a indagare un tema che a noi è molto caro ultimamente, in cui stiamo lavorando molto, che è il confinato, che è il confine di possibili sconfinamenti. Quindi diciamo che la frontiera continua su un'indagine, su un tema enorme, chiaramente anche questo momento penso che è qualcosa di molto presente nella vita di tutti noi, e però è anche veramente uno sguardo verso la possibilità del superamento, verso i sconfinamenti, diciamo, sia mentali che materiali, dove chiaramente diciamo, le frontiere sono viste non soltanto come qualcosa che blocca, anche come dei workshop creativi, come delle possibilità incredibili in cui possono crearsi anche delle nuove, diciamo, forme, altre possibilità del vivere insieme. E all'interno di questi 4 giorni, tra l'altro il 2, che è sabato 2 febbraio, presentiamo alle 18 il libro che è appena uscito per Editoria Spettacolo, a cura di Andrea Pocosnici, I teatri Margine Operativo, che è un volume che è dedicato diciamo, al nostro percorso teatrale, con particolarmente su, diciamo, gli ultimi spettacoli, però è anche un po' un racconto di tutto il nostro percorso di questi anni. Quindi dimmi tu se Beh, devo approfondire qualcosa, domande? qualcosa magari rispetto all'ultimo spettacolo. Sì, l'ultimo spettacolo è, diciamo, i testi, allora, la produzione di Margine Operativo slash attraversamenti multipli, liberamente tratto da testi di Alessandro Leo Grande e Annalisa Camilli, quindi c'è un lavoro sui testi preesistenti che poi vengono completamente, diciamo, sono degli spunti da cui partiamo, e poi in realtà la drammaturgia di Paco Graziani, che ha curato anche la regia, ed è quello che stavo dicendo prima. Infatti ci piaceva anticipare lo spettacolo con queste 3 performance, perché anche le 3 performance lavorano su Beautiful Borders e Odissea Furiosa, su concetti, diciamo, del confine e dei disastri anche che possono creare Sì. i confini. E mentre invece appunto lo spettacolo che è diverso diciamo, dalle performance, ma le radici di questo spettacolo stanno in questo lavoro di approfondimento che stiamo cercando di fare un po' da anni. Questo è un progetto, diciamo, un po' complesso, che lo stiamo facendo sia attraverso gli spettacoli, ma anche attraverso il festival, che attraversamenti molti, perché proponiamo con cadenza annuale, che è appunto un ragionamento sulla possibilità del superamento dei, diciamo, dei confini. È difficile, diciamo, raccontarlo, perché in realtà sembra tocca moltissimi. Come sempre, i spettacoli sono difficili da narrare a parole, perché in un'ora si condensano tantissimi, diciamo, elementi e riflessioni. Diciamo che all'interno, per chi conosce un po' il nostro lavoro, ritrova le nostre caratteristiche, che appunto una drammaturgia molto che parte da delle suggestioni preesistenti, ma poi viene completamente, diciamo, trasformata. Un attore solo, che però è comunque una specie di ponte, quindi e tante voci, racconta tante cose, quindi diventa una figura multipla, e una fortissima presenza del paesaggio sonoro, che è a cura di Dario Salvagnini, quindi tutte musiche, diciamo, originali, rivisitate o create appositamente, quindi un paesaggio sonoro molto importante, che è un pezzo fondamentale dello spettacolo, la presenza di alcuni flash video, quindi come sempre anche un intreccio di più codici artistici per cercare di comunque affrontare delle tematiche del presente, ma anche cercare di dare delle possibili vie di fuga, diciamo degli spiragli attraverso il teatro, creare anche degli squarci nella realtà. Rispetto invece al libro, considerato che è un po' una summa del vostro percorso, ricordiamo come è strutturato? Sì, il libro, diciamo, nella presentazione sarà presente l'autore, che è Andrea Pogosnic, che è un critico della web di teatro e critica, parteciperà anche Letizia Bernazza, che ha scritto uno dei saggi all'interno del libro, e Paolo Ruffini, che è il curatore della collana Spaesamenti di Editoria e Spettacolo, che è la casa editrice che ha curato questa edizione. Il libro è strutturato con una lunga intervista a noi, in cui ripercorriamo un po' tutte il percorso, il viaggio di Guardia Operativo in questi anni, e poi c'è un saggio di Andrea Pogosnic, un saggio di Letizia Bernazza, che affrontano chiaramente da prospettive diverse il nostro lavoro, focalizzando soprattutto l'attenzione sugli ultimi tre spettacoli, che erano Partizan Let's Go, questa trilogia presente, possiamo definire Partizan Let's Go, Al palo della morte e Presunta morte naturale, e poi c'è un saggio di Paolo Ruffini di chiusura. In mezzo ci sono delle testimonianze, che secondo me è una parte molto viva del libro, e tra cui c'è anche la testimonianza tua di Federico, che abbiamo chiesto, è stato chiesto a parte di Andrea, abbiamo chiesto noi a tutta una serie di complici del percorso di questi anni di Marcio Brasile, sia attori che hanno lavorato con noi, musicisti, danzatori, performer, ma anche critici, alcuni che hanno seguito il nostro lavoro, di fare delle piccole testimonianze, e che sono una parte, insomma, molto vitale del libro, oltretutto chiaramente una carrellata fotografica che ci sono anche tutta una serie di fotografie inedite che abbiamo tirato fuori veramente dai cassetti quando ancora non c'era il digitale, quindi scannerizzate, e tutto questo lo presentiamo il 2 febbraio alle 18, poi chi è interessato può fermarsi, e alle 8:30 c'è La Frontiera, lo spettacolo nuovo, quindi un doppio link, diciamo il passato, il presente e il futuro. In conclusione, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, per saperne di più, sia trovare tutte le informazioni sia sul sito del Teatro Argo, che quindi teatroargostudio.com, e sia sul sito di Margine Operativo, che è margineoperativo.net. Le performance del 31 gennaio sono alle 8:30, e l'anteprima dello spettacolo l'1 e il 2 febbraio, che venerdì e sabato alle 8:30, mentre il 3 febbraio alle 5:30. E allora ricordiamo il focus sulla compagnia Margine Operativo a Roma, al Teatro Argo Studio, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019. Un saluto e ringraziamento ad Alessandra Ferraro, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie.